ti rivedi in quelle strade polverose senza fine, in ricerca di qualcosa. Sotto la pioggia, danzando nel vento, facevi amicizia col silenzio. Tu ancora non le davi un nome, non trovavi le parole, ma ti bastava essere lì. Anche se sbagliavi, portavi un po' di sole, non è stato facile salvarti, ma non ti sei arreso mai. Tanti incontri nel cammino, tutti a mettere una firma nel diario del destino. E cercavi qualche cosa che chiamavano amore, ma facevi solo un gran casino. Tu ancora non le davi un nome, non trovavi le parole, ma ti bastava essere lì. Anche se sbagliavi, portavi un po' di sole, non è stato facile salvarti, ma non ti sei arreso mai. Tu ancora non le davi un nome, non trovavi le parole, ma ti bastava essere lì. Anche se sbagliavi, portavi un po' di sole, non è stato facile salvarti, ma non ti sei arreso mai. Thank you.